Non mi metto contro te perché sarei tipo Astro Boy contro Gundam, Woody Allen contro Van Damme. Sarei Pac-Man che fa le scarpe a Lara Croft. Tu sbavi liriche heavy sul mio stile soft. Mi rendi robot più dei Kraftwerk nel tuo supermercato. Oh oh, fugato, bancone su bancone. Quante rime buone, l'occasione che mi ha fatto ladro. Perdonami se invado, come a pallavolo, fischiami sto fallo. Io ti lecco il culo come un francobollo. Sei più figo di De Niro, ti stimo e ti ammiro. Quando canti come la Caraballo da capogiro. Tiro calci e pugni alla porta se non ti vedo alle jam. Do fuoco agli stand che non vendono i tuoi demo. Perché sei capitano come Nemo e temo il giorno in cui non ti rivedremo. Spacchi, spacchi di brutto, spacchi tutto. Spacchi, spacchi di brutto, spacchi tutto. Spacchi, spacchi di brutto. Quando te ne vai la scena resta a lutto. Spacchi, spacchi di brutto, spacchi tutto. Spacchi, spacchi di brutto, spacchi tutto. Spacchi, spacchi di brutto. Quando te ne vai la scena resta a lutto. Spacchi, Crash, ma non sono Bandicoot. In quanto Lilliput rispetto alla tua molle che mi vuole caput. Caro il mio gigante bello, salvaci tu come quello del carosello. Nell'anello fai bordello, rulli come uno spinello. Il micro, mo mi rendi micro, bobo, non ci capisco. Obbedisco visto che scosco, un fitto approfitto. Firmami un autografo che sei un mito. Firma qui su, chiama la tua crew. Di a questi signori che siete i migliori anche se tu mi ignori. Mi genufletto al tuo cospetto, sire. Elemosina un rispetto che non puoi capire. Non perché sei tonto ma perché sei tanto tanto tanto bravo. Desidero fare da schiavo a te che sei schivo. A te che fai skills che prima non capivo ed ora sì. È inutile, le cose stan così. Tu spacchi, spacchi di brutto, spacchi tutto. Spacchi, spacchi di brutto, spacchi tutto. Spacchi, spacchi di brutto. Quando te ne vai la scena resta a lutto. Spacchi, spacchi di brutto, spacchi tutto. Spacchi, spacchi di brutto, spacchi tutto. Spacchi, spacchi di brutto. Quando te ne vai la scena resta a lutto. Come il conte Dracula davanti al flash, come le chitarre di un concerto dei Clash. Mandi in cenere quando sali sul palco, sai che non ti batteranno mai tipo Ken Falco. Ambito come il parco delle vittorie, raccogli gloria e dimmi quanti MC hanno mandato in ferie le tue rime serie. Ma le radioattive sono scorie che non ti considerano, anche se come Sirano componi versi che si stimano, che molti mimano. Si sa che sono d'oro come il Libano, come Bart del nostro metto tutto speciale, tipo Giulio Inglese. Se ci lasci non vale, qui si mette male, ce ne andiamo. Bijou! Nessuno farà un cazzo finché ci sarai tu che spacchi, spacchi di brutto, spacchi tutto. Spacchi, spacchi di brutto, spacchi tutto. Spacchi, spacchi di brutto. Quando te ne vai la scena resta a lutto. Spacchi, spacchi di brutto, spacchi tutto. Spacchi, spacchi di brutto, spacchi tutto. Spacchi, spacchi di brutto. Quando te ne vai la scena resta a lutto. Spacchi, spacchi di brutto, spacchi tutto. Spacchi, spacchi di brutto, spacchi tutto. Spacchi, spacchi di brutto. Quando te ne vai la scena resta a lutto. Spacchi, spacchi di brutto, spacchi tutto. Spacchi, spacchi di brutto, spacchi tutto. Spacchi, spacchi di brutto. Quando te ne vai la scena resta a lutto.